5D. Ascolta e rispondi. Mi correggi l'esercizio? Ma te l'ho già corretto. Mi prepari il caffè? Ma te l'ho già preparato. Mi prenoti un posto a teatro? Ma te l'ho già prenotato. Mi rendi il mio libro? Ma te l'ho già reso. Ci fotocopi i tuoi appunti? Ma ve li ho già fotocopiati. Ci restituisci i nostri documenti? Ma ve li ho già restituiti. Ci compri i libri d'italiano? Ma ve li ho già comprati. Ci illustri i tuoi programmi? Ma ve li ho già illustrati.